israeliani sono coloro che hanno aderito ad un movimento religioso che però di religioso non ha nulla perché conserva un carattere ateo. Il fondatore dei israeliani è il francese Claude Vorilon. Rael. Rael sarebbe l'ultimo dei messaggeri di Elohim, la civiltà extraterrestre che ha creato ogni forma di vita sulla Terra. All'età di 27 anni, Rael era pilota ed editore di una rivista francese di sport automobilistico. Il 13 dicembre 1973, nei pressi di Clermont-Ferrand, vide un disco volante di circa 7 metri di diametro. In quell'occasione, un essere proveniente da un altro pianeta gli rivelò che ogni forma di vita sulla Terra, compreso l'essere umano, è stata creata migliaia di anni fa da una civiltà extraterrestre, scientificamente avanzata grazie all'ingegneria genetica e al DNA. Questi extraterrestri furono considerati dei dalle popolazioni primitive e così ebbero origine tutte le religioni politeiste. La missione di Rael è quella di rivelare all'intera umanità la verità sulle nostre origini e di costruire un'ambasciata ufficiale per accogliere i nostri creatori provenienti dallo spazio, gli Elohim. Secondo i israeliani, il termine Elohim si trova anche nella Bibbia, e questo è vero, e sarebbe un termine al plurale, anche questo è vero, un termine sempre secondo i israeliani, che etimologicamente significa coloro che sono venuti dal cielo, ma questo non è vero. Infine, sempre secondo i israeliani, il termine Elohim è stato successivamente ed erroneamente tradotto con la parola singolare Dio, anche questo è vero. Chi viene a conoscere questi aspetti del movimento israeliano non può che rimanere confuso, non tanto per l'originalità sia di narrazione sia di obiettivo, ma perché esso si aggiunge alle già innumerevoli e svariate religioni o movimenti, un'ennesima rivoluzione semireligiosa, tesa a dichiarare sbagliate tutte le altre religioni. Fino al 13 dicembre del 1973, tutta l'umanità avrebbe creduto in ciò che non era vero e adorato, di conseguenza, delle divinità che erano unicamente frutto della sua mente sviata. Credo che la prima reazione di fronte a tanta presunzione porti a esclamare: «Basta! Di religioni e di movimenti ne abbiamo fin troppi!» E, molto probabilmente, fra non molto, uscirà un'altra religione che si dichiarerà quella giusta, dichiarando tutte le altre sbagliate. Eppure, nonostante alcune assurdità del movimento raeliano, si contano più di 60.000 persone distribuite in 87 nazioni. Solo in Italia i raeliani sono qualche centinaio. Non è quindi possibile ignorare questo movimento semireligioso. Come tutte le religioni o movimenti, i raeliani basano il loro messaggio almeno su una verità. Hanno preso in prestito dalla Bibbia il termine Elohim e fanno notare che è un termine al plurale e che è stato tradotto al singolare. Da queste verità hanno poi costruito una montagna di menzogne che chi non ha voglia di indagare accetta supinamente. Che il termine Elohim significhi coloro che sono venuti dal cielo è un'invenzione bella e buona, e non sono io a dichiararlo, ma la lingua dalla quale il termine è stato rubato. In ebraico, la lingua che ha circa 4.000 anni, il termine Elohim significa divinità in senso generico, riferendosi sia al Dio di Israele, sia alle persone con una forte autorità. Nessun accenno a coloro che sono venuti dal cielo, perché questa insistenza da parte dei raeliani in merito agli extraterrestri. Perché il loro è un messaggio prevalentemente indirizzato al futuro e non al passato, presente e futuro dell'umanità come quello evangelico. Il messaggio dei raeliani è centrato sugli extraterrestri e dato che da alcuni decenni è esploso il fenomeno UFO, cioè degli oggetti volanti non identificabili, è evidente che il loro movimento cattura chi ha una forte curiosità su esseri viventi oltre i terrestri. Ma il messaggio forse più accattivante dei raeliani è che l'umanità è al bivio: o si unirà per costruire un mondo senza guerre e trasformare il nostro pianeta in un paradiso grazie alla scienza, oppure si autodistruggerà. Inoltre, sempre secondo la dottrina dei raeliani, gli Elohim hanno indicato il 2035 come la data entro la quale ritorneranno a meno che non vengano invitati. La costruzione dell'ambasciata, cioè del movimento raeliano, rappresenterebbe il biglietto di invito per l'umanità, dunque nulla di nuovo. Prima di loro sono sorti i testimoni di Geova, con un forte messaggio centrato sul futuro, indicando che Gesù Cristo sarebbe tornato prima, nell'anno 1878, poi il 1914, poi 1925 e infine nel 1975. Ricordo ancora che in questa ultima data, alcuni di loro avevano venduto tutto e aspettavano Gesù su di un monte, ma visto che non era tornato, ritornarono alle loro attività giornaliere dicendo, in seguito, che il ritorno di Cristo non era stato visto. Si continuano a citare date per avvenimenti futuri, ma fino ad oggi esse si sono rivelate solo fantasie mentali. Non posso certamente dimenticare quando nel XX secolo circolavano insistentemente voci che il mondo sarebbe stato distrutto prima del 2000. Questo non si è verificato, eppure coloro che hanno preso abbagli non si sono ravveduti per porre fede in Cristo. La data dei raeliani in merito al ritorno degli Elohim nel 2035 ha alcune curiosità. Innanzitutto, indicando il ritorno di extraterrestri, i raeliani prendono a modello la verità che un giorno Gesù Cristo ritornerà. Così, chi non vuole credere al ritorno di Cristo può benissimo sostituire questa verità accettando il fatto che degli extraterrestri ritorneranno sulla Terra. Non solo. Quando Gesù Cristo tornerà con coloro che hanno posto fede in Lui, il suo ritorno sarà considerato allo stesso modo in cui lo sarebbe il ritorno di extraterrestri e verrà accettato come la soluzione alla risposta dei problemi irrisolvibili dell'umanità. Così per i raeliani e tutti gli increduli, chi governerà questo mondo sarà un extraterrestre e non il Figlio di Dio. E ancora una volta la soluzione ai problemi dell'umanità sarà l'uomo stesso a risolverli e non Dio. Il messaggio dei raeliani dunque prepara la mentalità degli increduli affinché la verità sia cambiata in errore. Chi lo sottovaluta o lo ignora non è preparato a comprendere la mentalità che gran parte dell'umanità acquisterà nel prossimo futuro. Inoltre, la data stabilita dai raeliani ha qualcosa di particolare, perché una certa interpretazione biblica vede sempre, circa in quella data, il ritorno di Cristo. In effetti, sempre secondo una certa interpretazione in merito alle cose future, meno dopo una generazione dal ritorno del popolo di Israele nella sua terra, Cristo ritornerà. E poiché il popolo di Israele è ritornato dopo quasi 2000 anni nella sua terra, nel mese di maggio del 1948, dopo una generazione si arriva al 2048. È vero che una generazione generalmente si quantifica in 40 anni perché il popolo di Israele, come condanna, ha vagato per una generazione di 40 anni nel deserto, ma è anche vero che l'Eterno Dio stabilì anche una generazione della durata di 100 anni. Così disse l'Eterno ad Abramo: «Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al colmo». Genesi 15:1-3:16. Dato che il popolo di Israele è stato oppresso per 400 anni, ne deduce che una generazione sia di 100 anni. Così, ancora una volta, la somiglianza non solo dell'evento ma anche quello delle date renderanno gli uomini increduli e i credenti con una fede finta sempre più confusi. E come se ciò non bastasse, la televisione il 22 settembre del 2006 ha annunciato che nel 2026 noi esseri terrestri avremo un contatto con delle forme viventi intelligenti nello spazio. È vero che siamo abituati ad ascoltare tante stupidaggini, ma intanto si aggiunge confusione alla confusione. Come comportarsi nei confronti del messaggio dei raeliani? Non in modo diverso da come ci si deve comportare nei confronti di qualsiasi setta. Una setta ha la caratteristica della esclusività. O appartieni a loro, o sei totalmente ignorante in merito alla verità. È vero che il cristianesimo è principalmente esclusivista, non essendolo, non è più la vera fede cristiana, ma il suo esclusivismo non consiste nel ritenere salvato solo chi appartiene ad un gruppo religioso, ma è centrato sulla persona di Gesù Cristo. La seconda caratteristica di una setta è la mancanza di una solida base storica che ne motivi l'esistenza, e i raeliani ne hanno da vendere. I raeliani sono apparsi solo qualche decennio fa, dichiarando sfacciatamente di essere gli unici a conoscere la verità e che tutti dovrebbero seguirli. Ma la verità c'era anche prima che essi sorgessero. Coloro che amano la verità sono sempre esistiti. Perciò non è possibile affermare in un momento della storia di avere il monopolio della luce spirituale. Una terza caratteristica di una setta è quella di dare troppa importanza a questioni secondarie. Ogni verità che non si collega a Cristo, cioè alla sua divinità e umanità, la sua redenzione, la sua Chiesa, la Trinità, il suo ritorno, devono passare in secondo ordine. Infine, l'insegnamento morale deve essere il metro per valutare ogni movimento religioso o ateo, come quello raeliano. I raeliani considerano qualsiasi libertà sessuale fra adulti consenzienti lecita e naturale, come l'omosessualità. Inoltre sono pure lecite le ricerche sulla clonazione e nel campo della genetica. I raeliani sostengono che dopo la morte non ci è nulla, a meno che la scienza non intervenga. Infatti, sempre secondo i raeliani, gli Elohim hanno rivelato, ovviamente solo a loro, che attraverso un processo di clonazione molto sofisticato è possibile dare un'altra vita ad un essere umano deceduto, trasferendo in un corpo nuovo tutta la sua esperienza e la sua personalità. È comprensibile che chi è amante delle novità, chi ha una ripulsa verso gli insegnamenti religiosi ricevuti, davanti a un tale messaggio, per puro prurito di udire, abbracci un sapere segreto promesso. Ma la menzogna non porta molto lontano. Nel 2035 gli Elohim dei israeliani non torneranno, come sono state false tutte le altre date stabilite dagli uomini per il ritorno di Cristo. Molto probabilmente per quella data io non ci sarò, ma purtroppo le migliaia di persone che avranno abbracciato la fede israeliana saranno grandemente delusi. Nulla di male se questo li portasse alla fede in Cristo quale via, verità e vita, ma l'esperienza insegna che chi ha posto fede nella menzogna, al momento della verifica del suo inganno, quasi sempre sceglie un altro inganno, sempre più vicino alla verità. Per ora, il messaggio dei raeliani è uno di questi. Dicembre 2006. Ellero.